Bissetto io. Cosa Giuseppe? Ciao Giuseppe, buonasera. No, sono dall'altra parte. Dopo entro. Ok, sentiamo dopo. Natalino. Allora. Bimbo Man, ci sei? E tu già lo so che ci sei sempre. Stavo cercando Marco, se era rientrato perché era fuori. Natalino non risponde, non c'è nessuno stasera, io oggi, presto, c'è la partita stasera, quindi 7:30 chiudo e poi non si riprende più, a domani. E ieri mi stavo guardando quella del Napoli, c'era Manchester City-Napoli, però era le 6, capito? Stasera alle 8:30 c'è la Juventus, quindi mi guardo la Juve. Non ha mai funzionato, Giuseppe, non serve a niente. Guarda, io ne ho due amplificatori e c'ho lo strumento esterno, capito? C'ho lo strumento esterno perché non servono a niente, glieli mettono per bellezza quegli strumenti. No, non è scollegato assolutamente. Bisognerebbe trovare un altro simile a quello e metterlo, ma ti ripeto, non serve assolutamente a niente, perché quello che segna quello lì è assolutamente falso. Ha visto che Massimiliano ha portato lo strumento esterno, quindi sappiamo quanto dà in tutte le sue potenze, perciò problemi non ce ne sono. Quello strumento non so quanto l'ha pagato Massimiliano, quello è bello, non ce l'ho manco io, non lo so, penso un centinaio di euro comunque, non di più. Non lo so, bisogna chiedere a lui. Esatto, come il mio. Io ce l'ho l'arrego incrociato, capito? Aspetta che abbasso sto cazzo di PMR. Ecco qua, che ce l'ho dall'altra parte, nella parte amatoriale. E ti stavo dicendo, sì, quello è contemporanea perché ha arreghi incrociati, capito? Quindi uno segna la potenza e l'altro segna le stazionarie. No, ti rimane nuda, Giuseppe. Non te ne fai assolutamente niente, capito? Tanto quel lineare è trasterizzato, non scalda, non ha nessun problema, ventilato, 220, va bene così. La potenza al massimo l'abbiamo già provata noi, tu tieni al massimo e fottitini, non ti preoccupare. Poi se lo procuro uno strumento lo attacchiamo, adesso dobbiamo tirare su prima la modulazione, capito? Poi quello si vedrà, se si procura raghi incrociati te lo porto, non ti preoccupare, glielo colleghiamo, così hai tutto sotto controllo, capito? Quale? Ah, quella piccola, più grande gliel'hai messa, quella che gli hai messa adesso più grande, ma meno di casinaremi, le posizioni giuste sono, bravo. Quando salgo te ne porto una io originale della ZG, capito? Grande, perché quella lì sicuramente non è originale, io ho quella originale grande, uguale a quella però grande, vabbè, ma noi gliela mettiamo originale, la sua, capito? Proprio della ZG, già ce l'ho io da parte. E niente, adesso mi sto mettendo d'accordo con Massimiliano per vedere se riusciamo a finire a fare questo microfono e così sei a posto, capito? Via, lascialo stare lì, quando salgo me lo dai, capito? Così lo do a Giulio e se lo aggancia all'HB23 e le mette lo spinotto originale. Va bene. Vediamo un po', c'è qualcuno a Sassari? Tutti in piedi, siete? Natalino sempre in piedi, col bacolino. Non c'è. Gianni, non lo so dov'è. Marco so che è fuori, perché siamo... L'ho sentito in PMR. Boh, non c'è nessuno stasera. Bene, mi senti di radio, Giuseppe? Bismarck. così è. Valerio è un po' assente, non l'ho sentito in questi giorni. Attento Valerione, se non è a Porfottore dalla sorella. Mi sa che si sta stufando Valerio di stare ad Alghero. A casa sta, però a volte già scende a Porto Torres dalla sorella. Sì, ma vuole venire a abitare a Sassari. Capito? Va bene, io gli ho detto, facciamo cambio, ti do il mio appartamento, ti lascio tutte le antenne, più ti regalo una scatola. scatola di pelle, buoni, capito? E io vengo dal ghetto. Giuseppe, cambiare aria non fa male, a me Alghero mi è sempre piaciuto, io poi ho tutti i miei, capito? C'ho tre sorelle ad Alghero, io tutti i fratelli di babbo, già lo sai, le sorelle di mamma. Io sono l'unico un po' a Sassari, ne basta, gli altri sono tutti ad Alghero, Giuseppe, quindi mi sarebbe piaciuto, ma comprare una casa ad Alghero ci vuole un capitale. Grande sì, a pensare che mamma ce l'ha fertilia, ma una casa estiva, ci dovrei abitare d'inverno manco morto, c'è un freddo lì, mamma mia, a Punta Negra poi, capito? Troppo freddo lì, era una casa estiva e basta, infatti quest'anno c'era lei tre mesi, ha fatto giugno, luglio, agosto, se ne è rientrata la prima settimana di settembre perché già dice che c'era freddo, e io ho bisogno di bere freddo, e ho ciammari, by foot. Stamattina non sai freddo che c'è, sono uscito alle 6:10, ho fatto colazione via Pascoli, e poi sono andato a Sorso a prendermi la macchina ed ero, non si stava male con la felpettina leggera. Sono arrivato a Sorso, questo freddo, quest'aria fredda, gelida, mi ho dovuto mettere il giubbottino, allucinante. Poi verso le 9:30, alle 10 me l'ho dovuto togliere perché c'era un caldo da morire. Non si capisce più niente, no? Oh, proprio quest'aria fredda, capito? Aria fredda c'era, Oh, freddo c'era. Strano, ma com'era? È abbastanza, non è molto freddo come paese, come città. Anche quello è vero. Vabbè, comunque, cosa ci vuoi fare? Nel tempo suo e adesso non è che ci sono alternative. Guarda, io quella zona manco, non so manco dov'è, la conosco ma non ci sono mai andato, Giuseppe. Sinceramente parlando non ci sono mai andato. Bisognerebbe chiedere a Natalino a vedere. Io ho capito quella zona lì, però io non la conosco quella zona, capito Giuseppe? Non lo so. E che zona è quella? Zona residenziale? Boh, non lo so. Non la conosco quella zona di Giuseppe. Ne ho sentito parlare a volte, però non so manco dove si trova, dai. Non è che lo conosco bene il centro storico, capito? Mi pare di sì. Mi pare che si trovi proprio lì vicino al mercato. Perché è una traversa di corso Trinità, quindi dovrebbe essere lì in mezzo, va? Vabbè, però già si sta bene anche lì, dai, non è un problema, oh Giuseppe. Già va bene. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare. Gianni, ci sei? Cambio. Tutti a spasso sono oggi. Non c'è nessuno, no? Vabbè. Ehi, non credo. No. La partita è alle 8:30, cosa? Ancora ti devi preparare. Arrivando alla partita, ce ne vuole di tempo. Ehi, vabbè, magari sono impegnati da qualche altra parte. Sto guardando, aspetta. Ehi, un bel QRM c'ho anche oggi. E intorno al 4-5 ce l'ho. Ehi, vabbè, Giuseppe, il QRM fa parte della radio, non c'è niente da fare. QRM. E così e boh. E vabbè, Giuseppe. Ah, in quella banda che hai fatto sentire a me. Ma ho capito. Chi è che vuole entrare avanti? Boh, c'era uno di Guglio, forse si sente male, non so. E così è. Sono andato a casa alle 2, ho pranzato. Un bel passato di verdura, ma fatto con le mani, non quelli in busta. Ti dico, veramente molto molto buono. E poi mi sono addormentato nel divano come un sacco di patate. No, non c'è mai figli a casa, mi fa lei queste cose, non ci abbiamo tutto il centrifugo, tutto quello che serve, ci abbiamo il bimbi che è spettacolare, metti le verdure e se le taglia da solo, capito? E va bene. No, ma dico proprio, mi è venuto questo biocco. Stavo guardando un po' di TV, mi sono addormentato, mi sono svegliato che erano non c'è nessuno. Attento, bella Napoli. Oh, bello cantente. Beh, Valerio. Il tuo bip è inconfondibile oramai. No, quello della 48 è alla 48, non c'è niente da fare. Non è uguale agli altri. Non penso proprio. Massimiliano non ne ha. Poi i segnali sono diversi. Quindi il tuo segnale è quello e il bip è della 48, quindi non puoi scappare. E io sono in ore. Io sono entrato un attimo in camera, devo fare un ordine, se sono troppo sto uscendo. Ho provato a chiamare Natalino, Gianni non c'è, Marco è fuori sede, non c'è sta nessuno. Oh claro, Marco, tu un veterinario bravo conosci, c'è che non siamo toccato, Io c'ho un Fossi qua da via Barnabasso, bravissimo. Perché tu sei uscito con te cisti, adesso non so se sono tumori, o usa palle zo, però adesso affronta le spese altre, non io assoluti. Mi dovrei prendere un po' di cose per farlo. Cazzo casino. No, veterinari costano. Non ne va tenere conto nessuno. Io non so se è meno caro o più caro degli altri, o se è normale. A me me l'aveva consigliato il ragazzo di Daria, io sono andato lì, mi ha sempre trattato bene, però le tariffe sono quelle, non è che tu ci hanno disaugurato quanto miglia ne lasci. Vabbè, mi hanno chiesto 2,50 per fare tutto, operazione e tutto quanto. E cosa c'è esattamente? Claro, ci sono dei tumori, non so, è da vedere, da fare prima una visita, la visita mi costa 35 euro, poi se faccio tutto 2,50. E anche me, quando io porto a Filippo a visita 30 euro, ma queste 5 euro non è che mi giamba nella vita. E i prezzi sono quelli, lui, vengo dalla vanno. Lo so, adesso vediamo, ora. Vediamo cosa fa, io al momento non posso, perché lo travagliano, non ti travagli un gnadi, però un gnadi lo travagliamo, sì, che male ti guadagni quei 60, 70, 80 euro al giorno, vabbè, l'avrei fatto, e questa parte, purtroppo, oggi 60, domani la ridunuta, è quello il problema, adesso vediamo, ora, qualche, troppo, un rimedio, diciamo, ora. Quando senti a Gianni, prova a sentire a Gianni che lui è più esperto. Io ti ripeto, il mio è qua a via Barnabasso e i prezzi sono all'incirca, penso uguali agli altri. Senti a Gianni, per cosa ti dice? Magari chiede al suo, a vedere. Sì. Adesso vediamo, ora vediamo un po'. Quando sono usciti avete cisti? Erano piccole, pensavo la niente, poi man mano più stanno andando più stanno crescendo. Allora ce li ha? Ne ha uno nella pancia e l'altro nella mammella. Tumori sono lui. Tumori, capito? Poi è femmina? Sì. Ancora più pericoloso. Valeria dice bene, le fanno male, calato di peso, qualcosa è notato. No, stanno girando le palle anche che sta grattando, sta andare, quanto pare c'è qualche pulce, sotto il collo è tutta la magnata, si gratta di continuo. Stamattina abbiamo fatto il bagnetto, adesso domani, diciamo c'è questa ferita adesso, magari ho paura di mettergli la medicina, gli fa male. Poi vediamo se è, gli compro il collare. C'è poco, mi capisce, a caga entra subito, non c'è in giro. No, vuol dire che lì passano altri cani, poi vai tu, magari vanno le pulci e vi attaccano. Compaglielo, mi collare anche i pulci. Faccio la roba lì, lo faccio. Ma il bagnetto come lo fai? Con shampoo neutro per cani o lo shampoo che tiravi i peli? No, è uno shampoo, l'ho sempre usato, non ho mai fatto niente, uno shampoo per i bambini. No, lui, ci vuole lo shampoo, capito, perché magari c'è un po' di dermatite per quello che sta grattando. Dici? stava sempre grattandosi. Ho portato al veterinario e gli ho detto che lo shampoo che stavamo usando lo stava facendo venire la dermatite. Allora abbiamo comprato lo shampoo per i cani e non l'ha più fatto. Comunque anche lo shampoo per i cani è usato. Adesso vediamo, dai, vediamo un po'. Perché anche quello per i bambini è diverso, capito? Anche se sono neutri, però c'è lo shampoo per i cani, c'hanno delle cose protettive, eccetera, capito? Sì, lo faceva anche Filippo. Poi, vabbè, lo portiamo a lavare da Monica e non l'ha fatto più. Adesso vediamo, faccio questo ordine. Figlia di chi su da 900 euro, usante potente. No, 900 euro no, cioè l'SSI di Edge usato lo trovi a 200 euro, 250. Sì, vabbè, fai messi buoni fuggoli della F6. Però mi serve per lavoro, ho capito. Se però, come dico io, come si dice? Mi stacco la linea, non ne porto nulla tanto. Poi per il computer già malato. Poi andrò dal cliente e lo farò aggiornare da loro. Quindi usi pago troppo di internet. Capito? L'internet è un casino, una spesa inutile, però se serve per lavorare, non c'è niente da fare. Sì, un attimo. E io. Oh Capodanno, ci sei? Capodanno! Oh Capodanno! Natalie! Dimmi Capri! Ciao, sono tra sigla! Non sottovalutare, fatti controllare! Poi c'è circolazione! In casa già croce il diabete! No, e anch'io! Anch'io sto mangiando leggero! Tranquillo! Però già dormo la notte. No, non ho avuto tempo e sinceramente è una giugana perché lo devo togliere da lì, me portarmelo nel salone, metterlo nel tavolo, c'è un mare di viti. Quando sono a riposo lo faccio già. No, però il mio bisogna aprirlo, capito? A fianco alle valvole ci sono due trimerini. Devono essere quelli. Però non aggiungano già. Sono una rottura di scatola, aprire quella radio, diciamo 8 viti, solo 8 viti davanti. Devo togliere il sganciare da davanti il cassone perché è scorrevole, capito? Sopra ne ha 4, e 4, 8, 8, e 8 sono 16, mamma mia, è tutto pieno di viti. Ora c'ha qualche calcolo allora. Ehi, andrà bene. E beh, te detto di lei è quell'amico tuo per il Galaxy. Vabbè, non sarà per attaccarti l'acqua, già te la facevo attaccare subito. La luce non... C'ho qualche amico, ma... Ne avevo uno, bravo. Il mio carissimo amico, abbiamo fatto anche il militare assieme. Se n'è andato l'anno scorso. Se n'è andato Tino. Cosa vuoi ti faccio? Letta mia, Ferrari. Abbiamo fatto il militare assieme alla Maddalena, un bravissimo ragazzo. Era responsabile delle cabine, capito? Un tumore, si era portato in pochissimo tempo. Quanti anni aveva tuo padre? Mamma è morto nel 60. Io ero appena nato, figurati. Non avevo neanche un anno. Lo so. Vabbè, questo mio amico aveva 58 anni, o 59, adesso a novembre faceva. Aveva un Ferrari. Quindi, cosa vuoi ti dire? Non c'è niente da fare, quando ti prende quel male lì, no, prima o poi, chi 6 mesi, chi 3 mesi, chi un anno, chi è più fortunato, ma 9 nuda la mano, perdona. Lo stesso questo mio amico ce l'aveva lo stomaco, tirando, e ha iniziato con questi dolori. Secondo i medici non era niente di grave, una colite, c'aveva la colite, poi non so come c'era l'anidito, poi insomma. Guarda, era sempre da un ospedale all'altro, e poi finalmente li hanno diagnosticati. Cambiamo discorso. Ho detto che la stai usando adesso, sempre HB23, tocca il 5024, io ho avuto 5024 e 5008, però escono bene, hanno questo microfono dinamico allucinante, ha una bella modulazione, esatto, sì, quello che c'ha il PTT al lato, alla melle, sì, escono molto bene quei microfoni, sono 500 ohm, vanno molto molto bene. Ehi Massimi, ciao, buonasera, ben ascoltato, infatti non ti avevo sentito, no? Sicuramente sei già uscito, va bene, mangia. E cosa stavo dicendo, Capri? Oh, vabbè, ma non lo lasciare ferma con la radio, non fa metà giovato io, perché poi ce la rimetti, accendila, usala, il microfono tieni basso, se no se c'è il microfono normale usa quello normale, cosa vuoi ti dica, però usala. Beh, se uno si prepara già riesce a fare le cose, ce n'è problema. Lo cobra, sì. A me invece di venirmi un cobra, non mi piacciono i serpenti. Dammelo alla per te. Cazzo mi dico questo cobra. Lascia l'inchivro cobra, non tocca se. Cazzo, non ero nato io nel 92. C'avevo 23 anni nel 92, non ero nato. Cazzo, 23 anni, hai detto una cazzata. 59 e 92 quanto sono già? Vedi tu, avevo quasi 40 anni. Se fate il baratto lì. E vabbè, comunque, nel 92 c'avevo 84 anni già, quindi. Vedi tu, già ero nato, dai. Avanti Massimiliano, finito di mangiare. Questa è quella che abbiamo regolato assieme, mi stavamo usando ieri. Bella radio com'è, molta differenza c'è dall'altra. Ha giudito, va benissimo. Vabbè, il microfono è diverso, però la radio è sempre quella. Adesso devo telefonare l'amico a vedere. Cosa ha deciso con questi microfoni, sia del Saturn che di questa, perché mi mancano dei microfoni manuali, la Palmo, avanti Capri, che il croce Massimiliano non è, il tuo non è un serpente, il croce Massimiliano Morsica, quello è il Cobra GTL, la versione da 100 watt, c'è il dissipatore sotto la pancia, c'è un amplificatore lineare sotto la pancia, sembra un B300, c'ha 100 watt, lo so che intende, ha 200 watt, non 100, è un mostro, costava nuovo, costava quasi 700 euro, una cosa del genere, capito? Lo sta dando lui, lo sta vendendo, se trova lo vende, ma è una bestia è quella radio, dice quanto è bella, è forte, è potente. Sì, l'MC50, io ho avuto l'820 e l'830, capito? Tutte e due li ho avuti, hanno lo stadio finale a valvole quelli, sono transistorizzati col preselettore, hanno lo stadio finale a valvole e funzionano abbastanza bene. Sì, l'MC50 è lo stesso della mia radio, del TS780, questo 780 anche base, capito, sempre della Kenwood. Aspetta, faccio entrare. No, già sono cose belle, 8.20, 8.30 sono mitici di quella linea lì, che poi sono uguali al 780, cioè TS780, sono della Trio, quelli Trio Kenwood, capito, sono storici. Ciao Marco Condor, ma non mi sentivi da bancare a me? Io non ti sentivo. No, negativo. Buonasera a tutti, innanzitutto. Niente, ho provato a togliere lo squelch e niente. Poi ci volevano spostare un altro canale perché lì sai entra altra gente. Poi mi è sparito Pomponio, mi è scomparso, non ho più sentito. Ma io ho sentito la frase, dice, lo sto attaccando alla 5 ottavi. Io spero non abbia attaccato quella roba lì alla 5 ottavi del baracchino, no? Non sarà così, ah? Nulla, non ti sentivo, zero totale. E io lo stesso, no? E al fisso, arrivato? Lì mi sono preoccupato, ho commutato alla radio grande, non arrivavo neanche lì, capito? Niente, potevo fare la prova con la direttiva anch'io, perché io ho la direttiva UHF, 12 elementi, potevo farla, però poi ho visto che non ti sentivo più, allora sono venuto con la 27. Però sono delle prove da fare. No, lui sicuramente ti sentiva perché era in direttiva, quindi mai c'era puntata, lo vedi tu, e ti sentiva, ma in verticale non arrivavi. Ma non riesci, non ti potevi portare a base magnetica. Ci spostavamo a fare qualche prova, no? Caspita, avevo la veicolare, quella da un metro. Ti ho sentito con la veicolare da Porto Torrese e non arrivavi a casa mia da Bancali. Boh, devo preoccupare allora. Ma lì è una conca, zona Monti Minuzzu, è una conca, cioè prima c'è Sassari, no? Poi sale lo stradone, la strada principale, e poi riscende, e in fondo a questo stradone c'è questa zona ancora più infossata, perciò non sentivo e non mi sentivi. Lì è proprio un punto, un fosso vero e proprio. Penso che al baracchino non sentivo quasi nessuno un'altra volta, ma appena sentivo Sassari. Ah, beh, tu quando torni a Andrelli mandami un messaggio su WhatsApp, che io commuto metto la radio grande, commuto la direttiva, anziché la verticale, la faccio girare, tanto lì mi pare che sia tra i bancali, mi pare che sia intorno ai 260-280 gradi. La faccio girare e vediamo se ti sente in direttiva, ti devo sentire per forza, capito? Io non ci ho manco pensato. No, Antonello, quando ti sentivo la direttiva, quando ho attaccato la verticale non ti sentiva più. Poi vabbè, è entrata altra gente, io non ho parlato più, capito? Va bene, avanti Capri per Marco. Guarda che è entrato anche Massimiliano, Marco. Capri. Guarda che è entrato anche Massimiliano. Yeah. Ciao Massimiliano, oggi eravamo un po' messi male però, io ho dormito male, mi sono svegliato tutto sciabidato, avevo poca voglia di mangiare, pensa che mamma si è sentita male, ha vomitato, pensa, cioè non si è sentita male, ho mangiato più del dovuto, non l'ha retto, tempo di arrivare in bagno, tutto, ha buttato tutto. Perché voi non siete abituati ad andare così in campagna, a mangiare, a buffarvi, ci avete gli orari diversi, capite? È chiaro che una volta che lo stomaco prende quella via, quando le dai più roba, la butti giù per forza. Vai Massimiliano. Ehi, qua come ieri 6:08 e un quarto di segnale. Cioè la metà di 8 e mezzo, 8 e un quarto. Comunque buona la radio. Poi non c'è nessun altro qua, no? No, ho chiamato stasera Natalino, Gianni, ci dovrebbe essere Valerio in ascolto che stava facendo cosa. Poi ho mandato un messaggio a Massi, che è entrato e stava facendo la doccia. Sì, sta usando un Tocca 5024, molto bella la radio, però c'ha pochi watt, capito? Quindi qua è 9:15, però ce l'ho di fronte. Invece Massimiliano lo sente basso. A me Massimiliano ha lavorato, sta a posto. Ho visto quel video che mi hai mandato, minchia. Ma te l'hai fatto duro, Gubbafarà. E che non riesce a fattirlo. Stavo mando Marco. Vede Massimiliano con lo scavatore che c'è sceso, mamma mia. Pucci pucci. Vabbè. Lui non ha vita su quella macchina. Cantare vicino allo scavatore. Maria Garega, proprio da bambino, ma una passione ti piaceva proprio. Magari andare in spiaggia avevi lo scavatorino, ti portavi, no? Quelli giocattoli. Perché era la mia abitavate. Ah, benissimo. Fertilia, poi tre giù a Tramaliglio scendevamo, qualche volta la Speranza ci portava, oppure lì a, come si dice, a, bah, lì dove c'è, sono quelle spiagge, dai, a Lido, dietro, lì. E poi la Sofrasita Porotosa, beh, andavamo da soli, lì era Rinaretta, Scoglio Lungo, sono sempre vicino, dai. Avanti Capri, 2, la setta che è andata alle aree su Kimbo, d'uomo, ma addio, mi esci, me ne vuoi pure i guffi, ma si veglia, sentito è a Capri. Aia. A proposito di pale meccaniche, anche mio zio negli anni 70, quando aveva la cava Florinas, me, cava Florinas, usava la pala proprio, non so se si chiama scavatore, pala, insomma quella col braccio e con là, la cosa per scavare, e si faceva qualche soldino, poi hanno aperto l'altra cava, dove in più lui dava la sabbia sporca, no, così com'era, lì invece lavavano la sabbia e c'avano anche il camion per il trasporto, quindi hanno fatto le scarpe, poi lui ha detto anche che si stancava, capito, a stare lì sulla pala, anzi un vizio di famiglia deve essere lì, girevamo. Poi, prima infatti, per me questi sono numeri, io non me ne intendo, Massimiliano, ti può rispondere, vuole Massimiliano, Capri, Massimiliano... è una vita sopra quelle macchie, se dice che non esiste, non esiste, così è, così, è la Moldava, la via Bush. Io non me ne intendo, io al massimo ho avuto la gru da bambino, quella elettrica, capito, è abbastanza bella, non aiuti a me, ah, poi questa pala, visto che mio zio, vabbè, gli hanno fatto le scarpe, poi non aveva tanta gana, la pala l'ha lasciata lì, quando ha piovuto il terreno è diventato tipo sabbia mobili, va mio nonno e vede la pala affondando, no? E non so chi hanno chiamato per aiutarli a non far affondare, poi questa pala meccanica dopo qualche anno scompare, praticamente mio zio se l'è fatta in vino, me, e mio nonno che l'ha pagata, il padre di mio zio, non ha mai saputo che fine avesse fatto, perché lui sempre, quando le occhedeva, girava le spalle e scompariva per giorni, capito? Sicuramente se l'è venduta, se l'è fatta in vino. Non lo so, io so che la nostra cava era a monte e quelli che l'hanno invece, che avevano più attrezzature, erano a valle. Ma già mai io vedi se chi quello di sicura dei due, alla sfiga, lui è, no, perché compare di mamma è Gianmario Vidi, che è l'impresario, quello di Itti, capito? No, non mi ricordo che avesse cave. Va bene, riprendi Massimiliano. Io ero già venuto da Figurini. Ero già venuto da Figurini. Adesso andiamo. Puntuale mi è entrato Massimiliano. Mamma mia, lo metto. E vabbè, io vi lascio una mezz'oretta. E poi rientro, ciao Massimi, saluti a casa. Marco, riprendi tu e io già arrivo subito, ok? Perché poi alle 8:30 c'è la partita, quindi stacco, vai. Ci sentiamo dopo, riprendi Marco. Eia, oh Massimiliano, un attimo. Stavo leggendo qua, oh, come Fiat Alice, così, oh, come nel caso delle pale cingolate FL6, FL7, FL8, FL8C, FL9. Che siano queste? Non ne capisco molto io, me, di sigle, pieno di sigle qua. Ah, le versioni di adesso? Perché qua ci sono troppi numeri, è un casino, qua. Fiume Giallo, aspetta, vabbè, adesso aspetta che non prende la linea. Fiume Giallo, come un fiume di PP, così è. E nella connessione va e viene, dai, già lo cerco dopo, dai. Ma un'impresa di dove? Di Sassari. Eia, ciao Massimilia. Anche tra l'altro è andato via, mi. Cos'è, a portare il pupo a fare la pipì? Sì, così lo fa il cane adesso, il Fiume Giallo, me. Pomponio, ci sei? Eia, mi sa che siamo rimasti soli qua. È andato a portare il cane Claudio, credo. Oh, ma se li hanno chiuso, dai, sta facendo roba. Bene, ho chiamato a vedere chi altro c'è qua, l'ascolto. Ci sono me. Vabbè, oggi è modulato? No, negativo, perché... Noi eravamo in campagna, abbiamo mangiato lì, ci ha invitato mia zia per l'ennesima volta, deve essere che si senta sola. Chi è che ha pigliato con vita Lecchina? No, no, no, no, no, già non bria, non bria. Oh, fiume giallo. Ah, in Cina c'è il fiume giallo pure, ed è giallo vero, uno schifo, eh. Esce a vedere, fiume giallo in presa. E qua mi riporta sempre al fiume della Cina, però. E vabbè, dai. Sento un fischio sotto, tu lo senti? Ma sotto di me? Sulla modulazione mia? Guarda, eh. Eia. Papà, sta guardando il baracchino. Ah, non penso, no. Un fischio sente, ui, così, capito? Vabbè, non mi posso, non mi posso autoascoltare. Sì, anda per me stessi, dai. Eia. C'è anche Capri 2 con potenza bassa. E un po' stanco sono, guarda, ho sognato male, mi sono alzato male, ma male. Infatti in campagna ho mangiato molto poco, non me la sentivo tanto, dai. Pensa che mamma ha vomitato, lo sai, ha mangiato un po' più del dovuto, non è abituata e ha vomitato, tutto ha vomitato. Che non sia per l'orario magari, è abituata. Quello che mi ha detto Claudio, forse per i... però è vero, se mamma mangia appena appena più del dovuto, non si sa perché le viene da rimettere. Deve fermarsi al punto giusto, se se ne accorge, ma se non se ne accorge, vabbè, capita. Non dovrebbe capitare, ma capita. Se io sono pieno in bomba, non vomito. Vabbè, mamma anziana, boh. Vabbè, sì, sono stanco, sono un po'... sono suonato. Vediamo se ascolti Capri 2. Capri, vai per Natalino. È incomprensibile. Non ti ascolta lui, non ti ascolta, dai. Via. A te ti sente Natalino, Santiago 5, però la modulazione è molto bassa per lui, capito? Poi ti stai svegliando adesso, quindi sei un po' così. Poi spero di dormire meglio stanotte, mamma mia. Purtroppo è così. E dove sogno male poi, capito? Sogno cose brutte. Va bene. Domani devo accompagnare a Lucia mia moglie, poi non lo so se faccio in tempo, guarda, ci porto quel dell'anno scorso, mi sono dovuto andare a chiederla al comune perché mi hanno mandato quello del 2015, ma quello del 2016 no, e quindi non ho potuto fare nulla ancora, va un macello. Bene, ma visto che hanno chiuso loro due, mi sa che... Che ore sono? Aspetta, ho la sveglia qua. 19.31, beh non è tardi, dai. Boh, non so se rimanere in radio oppure... Ho detto, sono un po' stanco, manco voglio parlare, io. Allora, sai che ho trovato al campo. E chi? Pomponio? No, a farmacia ho trovato. Ah, farmacia. Ehi, quanto tempo è passato? Adesso sarà anche lui bello invecchiato, no? Prima era giovane giovane. E lui sembra un porcetto, di quanto è ingrassato. Oh, ma lui, certo, non, cosa aveva, una cosa alla gamba, non gli è mai passata, no, ovviamente. Ehi, senza tappelle, senza nulla. Però già la... da sempre a cosa l'anca penso. Lui, lui. Cosa vuoi che ti dica? Veglia, farmacia, sì, sì. Uno dei tanti nomi che sentivo, mamma mia. Quanto tempo è passato? Ben pochi me ne ricordo i nominativi, perché c'era tanta gente e noi stavamo grosso modo sempre sul canale nostri, con la Greffettina, io, Pippo, Armando, Alba. E stiamo parlando dell'84, 85, forse anche 86. Capito? Poi ero timido da ragazzino, non è che parlassi con tutti, no? Cosa se ne è fatto? Non l'ho più visto a Giuseppe. Tanti anni fa lui aveva sempre quel negozietto di riparazioni in Piazza Università, in una traversa di Piazza Università. Sempre che non abbia cambiato mestiere, perché io non ci vado da anni, forse 10 anni e più che non ci vado. Siete perché di tutta Eia, ho preferito. Se capì? Me lo dici un altro momento, non ho capito la situazione. Eia, no, niente di che. Sì, preferito dedicarmi a altre amicizie, dai. Sì, ho capito. Buone poi me quelle amicizie. Non se ne salva uno. Gli amici sono i primi che ti fottono, c'è poco da fare. Te lo garantisco che io ho una lunga esperienza in fottidure. Sì, infatti, i veri amici contano sulle punte delle dita. Sì, sulle dita di una mano sola. Sì, infatti, il nostro latte da conoscenza. Sì, infatti io quando parlo di molta gente dico conoscente, un conoscente, non amico ga, anche a scuola, no? Non me ne fregava niente, tranne qualche caso della gente di scuola, tanta gente dei paesi, questi non li vedrò più, cosa me ne affutti a me di dargli retta, capito? La gente che passa e va, meteore. Vabbè, già ce n'erano tipe carine, però purtroppo tutte volevano essere sposate, quelle ragazze dei paesi, se da ricordo appena appena, pensavano al matrimonio, vero Gianni, e ha chiesto Capri se farmacia è il fratello di Franco Camomilla. Come? A malapena sento la radio, ma è la radio 1. Forse sei con il mic normale. Sì, confermo. Era il fratello di Franco Camomilla, mi pare. Se è Franco, sì. Eia. Oh, pure la discoteca c'era. Non l'ho mai saputo, ma vabbè, tu mi stai parlando di anni 70, quindi io ero piccolissimo. Ero piccolissimo. Eia. Natali, visto che dai, non vi sentite voi due, io chiudo perché sono fuso, la giornata non mi ha soddisfatto, proprio ho alzato male, ho mangiato poco e... non vedevo l'ora di sdraiarmi, è tuttora mi sdraio, non guardo la TV e mi addormento, dai, ci sentiamo domani, ok? Già rido se ti piglia una voce Natali, pure con quel filtro, non lo so, io non credo molto nei filtri, ma sai, forse pure sia efficace, ma vabbè, proviamo, dai, proviamo gli altri giorni. Se sei gente che ti piglia una voce vuol dire che non ha funzionato il filtro. Infatti. Vabbè dai, ci sentiamo domani. E Gianni non è entrato a proposito mai. Doppio room? No, non è entrato. Oh, non lo so, io sono arrivato tardi, Sono entrato alle 6:30 a casa, quindi. Chi è che fa break? Avanti? Buonasera, volevo confrontare. Sì, un attimino che guardo lo smitter. Avanti. Allora, quasi 9 più 10, zona Sassari, cena Mariston. Ma Elio Piuma, sei tu? Ciao Marco, ci sentiamo, ciao. Ciao Giulio. Eia, scusa Elio che ha salutato una persona. Allora, sei tra, diciamo, tra 9 più 5 e 9 più 10. La radio è buona, buona. Niente da criticare. Ce l'ho uguale, bello, bella apparecchio, bella bestiolina. Lo sto usando poco, la verità, però ce l'ho, tutto bello programmato. Io mi ero programmato 60 canali per banda, in modo che ho di ascoltare anche i 10 metri, capito? Ma nuovo? Beh, io l'ho pagato nuovo, tipo 2.10, intorno alle 2.10 nuovo, più la spedizione. Ma lo devi vendere usato? Usato nuovo? È usato nuovo, non so quanto. Ebbè, almeno 150 euro, è ancora in garanzia oppure no? Devo dire che ha anche una bella radio. Stai usando anche il microfonino originale, quella saponettina che io levo subito. Io uso un altro microfono sempre normale, che sarebbe poi questo. E migliora tantissimo. Cioè, tantissimo. Migliora abbastanza, dai. Non lo so, io le quotazioni non le conosco, ma se è nuovo di pacca, minimo 150 euro. Se no è regalato. Sì, un bel apparecchio, forse un po' rumorosetto, il QRM non scende mai sotto il 3 a casa, però bello in mano laterale, bello in FM, insomma un bel apparecchietto. Poi io ho il CRT 7009, il CRT 9009, che praticamente sono la stessa radio, però con forme diverse, capito? È una radio riuscita. Da Media Globe danno la Nitone, che è lo stesso apparato, a Nitone 140 nuovo, però la Nitone non te lo assiste nessuno in Italia, mentre quello lo assiste la Intec, perché è della Intec, capito? Quindi la Nitone non ha assistenza, è usa e getta. Vedi se c'è qualcuno che lo vuole, se vuoi faccio girare la voce, però vedo che c'è abbastanza crisi. Anch'io stavo vendendo due apparatini, ma non ne vuole nessuno, capito Elio? Comunque lo dico anche a Claudio, a chi può interessare. Guarda che adesso mi pare 9 più 10, vai. Sì, 9 più 10, buono, mi pare che abbia un forse 10-12 watt, una cosa del genere. Caspita, se funge. Bella chinesa. mezzo, mi pare in FM ne avrà 30 o 40 fissi e altrettanti in SSB. Poi c'è un menu, c'è varie cose, certo per persone esperte, no? Graziano stava cercando un baracchino, voleva il CRT 7009, solo che lo stesso c'è un menu. Se non tocca niente va anche bene, mi glielo proponi, Graziano, sul 20 parla spesso, voleva il 7009, al limite se glielo dai prezzo buono potrebbe scegliere quello. Provo a chiedere sul 20 oppure glielo dico io. Sono rientrato? Eia, guarda che c'è Elio Piuma, sta dando un baracchino veicolare, che era quello che avevi anche tu e che aveva anche Gianfranco, un Intec HR 5005, nuovo di pacca. Io saluto Elio Piuma, buonasera, mai sentito, però chi lo è? Io baracchini non lancio, c'ho il mio base, per il resto già lo sa lui che cosa uso. Cioè, è entrato Antalino che era dormito, come dice qualcuno, e c'era ancora Capri 2 all'ascolto, credo. Vediamo, Capri 2, non te lo stacchi più, mi. C'era Graziano che voleva comprare un baracchino, un CRT 7009, so che CRT 7009 è tutto a tasti, boh, il 5005 almeno più manopole delle bande, dei canali, del, insomma varie manopole frontali, per lui più, sarebbe più comodo. Guarda, Elio, il CRT 7009 assomiglia allo Yaesu 7009, hai presente il veicolare? Yaesu 7009 però ingrandito, ingrandito quanto un 3009, molto simile, tasti bianchi sotto, display digitale, però forse per Graziano è più indicato quello, perché c'ha più manopole così a girare invece di menu. Una volta impostato si lascia fermo, insomma glielo proponiamo, se li piaggi gli mando le foto. Conviene vendere, perché alla fine anche svendi e vedi che non ne vogliono lo stesso, allora me li tengo, pazienza, me li godo io, me li porto nella tomba, come dico io. Si prova a gratis, sì, già lo vu, non ti preoccupare. Si prova a gratis, sì, non c'è tante cose buone, però vorrei dire no, non vanno da nessuno. Come che le radio siano state regalate, state comprate con tanti sacrifici. No, io non. Quelle che avevo in più le ho date, ma in più però, le doppie le ho date, adesso basta. Quello che ho me lo tengo, anzi. A Natale mi farò un altro regalo, mi cambierò. il 756 e prenderò un altro orario e basta, mi hanno fatto in nuda. Avanti Capri, chiamo anche Natalino se l'ascolto, vai Capri. Buonasera a tutti. Che sorpresa, hai mi hai ascoltato, io buonasera anche a tutti gli altri. E niente, cioè è bello sentirti, dai, dopo è un po' di tempo non ci sentiamo. Chi tocca a Natalino, sono qua, io riprendi Natalino. No, Natalino è entrato a salutare, mi sembra, e basta. Ciao Gianfra, buonasera, ben ascoltato. No, ma ti entro io, no. Tanto un baracchino serve sempre, io ce l'ho, intanto lo uso, un po' questi, un po' quelli. Il problema è che questi chemical bisogna usarli, perché sennò, essendo analogici, vanno a farsi fottere, e allora ogni tanto lo facciamo andare, uno, l'altro, io ne ho tre, e quindi devo usarli ogni tanto, sennò uso il Galaxy, uso il Dark, uso l'Aran 48, e ne ho dei baracchini. Bene, bene, avanti Marco, riprendi tu e fai girare, dai. Eia, io te l'ho detto, oggi dormito male, sognato male, svegliato male, proprio una giornata fiacca, infatti quasi quasi mi salvo dicendo mi vorrei sdraiare, mi accendo la TV, dai, poi già sentiamo domani in migliori condizioni, ok? Dai. Ciao Gianfranco, ben entrato. Quindi saluto Elio, Gianfranco, Natalino se l'ascolta ancora, e Capri 2, dai. Dai, ci sentiamo domani. Vai Claudio, riprendi tu. Io faccio qua di X, dai, e poi a domani. Cappa, d'accordo Marco, io anche io mi trattengo, mi sto finendo una sigaretta qua in stanza. E poi vado a cenare, perché poi alle 8:30 c'è la partita, mi guardo un po' di sport e via. Ok, avanti Capri. Ho visto che il Napoli ha buscato? Sì, 2-1, però al Napoli vincono. E non ha tutti i torti, non l'ha mai. Capito? Bisogna stare attenti quando si piazzano le antenne. Va bene, dai, io vi saluto ragazzi, che è pronto, mi hanno già chiamato, ok? Ciao Marco di nuovo, ciao Gianni Capri 2, ciao Elio, fatti sentire più spesso, siamo sempre qua noi. Ciao anche a Gianfranco, Natalino se l'ascolto e tutti quelli che sono in ascolto su 10. Buonanotte a tutti, a domani, alle prossime, vai Gianfranco. Sì, ok, ciao Flavio, allora ciao a tutti gli altri che stanno chiudendo, buona serata, buona cena. Cambio per Elio, facci sentire un po' la tua vocina, io dai. Quello parliamo al telefono magari. No, ti volevo dire che se non l'hai ancora fatto ti devi programmare con le frequenze di quel ponte che le abbiamo cambiate per un motivo. E quindi adesso sono a Schiff 1.6. E quindi è quello, non è R9 praticamente, è R1. Non lo so, facciamo prima a dire chi è rimasto. Chi è rimasto avanti? Siamo rimasti secondo lì. Ok. Comunque, cosa volevo dire? Sì, facciamo bene con l'antenna. Cioè, uno dei pochi progetti che mi hanno fatto espansione. Perché effettivamente il guadagno si vede. Da me, ad esempio, per l'RV1, quello a 0,25, valeva quanto scava adesso. E il traffico c'è anche senza dare troppo assenso, quindi va, dai, si riesce ad andare benissimo. A voglia, meglio di così, non credo di poter prendere, anzi, è un valore più ottimale. Sarebbe interessante qua fare la radio telefonica, che magari può andare da una trama all'altro, guarda il grafico, se lo dice. Sì. Ma io la metterei dopo c'è l'antenna Tau 27, tanto l'importante è che ci fai gli alberi, poi va tranquilla, però dove devi andare, vedi, non è che ti occorre fare la salvezza. Ma guarda, devi fare un semplice calcolo, quanto ti costa metterla la sua provincia in termini di dispersi e quanto ti costa metterla su quel palo individuano gli altri, perché a un certo punto ho messo, che ne so, a 20 metri d'altezza e mi perde 10 dB per se il caso vuoi, e sono malandato o a causa dell'acqua, del pioggia che non ci sono, del caldo, forse meglio dire, dura di meno, e tanto vale di metterla lì e non c'è i problemi di cavo di andarti a metà per il cerchio e per intenderci, e tra l'altro possono farti un tanto, l'importante è arrivare, anche se arriva a 5, 4 va più bene. Sì, le cose le ha prefatte il presidente, lo sa, il vostro, ce le aveva, gentilmente ce l'era aperta, vediamo un po'. Solo che c'è un problema, c'è la madre di tutti i problemi, come è stato soffiato, che a parte il posto, che non si riesce a trovare un sito decente, ma poi è anche l'utilizzo, che è praticamente inesistente. Abbiamo dato presenza a destra e a sinistra, ma rifiutata notoriamente, lo provano solo due persone, hai capito chi sono, io e l'altro. Ho paura che saremo così l'idea. Non so cosa dire io. Io purtroppo non c'ho tempo perché da una cosa all'altra sono incasinato, non è stato un po', se no ci avrei fatto vedere una cosa che risolve tutti questi problemi, cioè perlomeno risolve il problema del sito, ma non risolve il problema che è la madre di tutti del centro. Mi è arrivato quel famoso portatile che ha funzioni speciali. Ed è, devo dire, non mi giuro, proprio lo stato dell'arte. Grande soddisfazione, veramente. Anche se non HS, però è un mostro, ma un mostro speciale. Ho dovuto penare perché la licenza, invio, richieste, perché la licenza non è andata neanche qua, non è stata fatta da fuori, dalla casa male. Mamma mia, guarda, bagno di sangue. E niente, però diciamo, ne va fatta in cara, con la grande soddisfazione di me faranno. E poi mi è arrivato, invece ho provato a comprare, tipo, non mi consentavo anche uno di quei, un bipan da portarti, un altro. Che è un giocattolino, ne ho 80 euro, 89 euro. Ma va benino, va. Sì, ma sono arrivate due, mi è arrivata quella che ti stavo dicendo, che l'ho ordinata da un rivenditore, il rivenditore l'ha chiesto la casa male non l'ha mandata, e ha funzioni esclusive, diciamo, delle sera. L'altra è una radiolina da 4 soli, giusto per fare suona, ma se poi bambino, se non c'è pretese, ma giusto per avvicinarti al mondo, va. Qua ti va bene. E io siamo qua. com'è? AW03A, così. No, 06A. Ah, sì, era quello che dicevo io. Sì, ma ce l'hanno messo questi rincoglioniti. Li sono guardati, per cui ci mettono fino a dormire. Ma se la si vede che canto sul fondo, no? Facendo un'attenzione. apparecchio, che è quello che ho preso, radio DT con la I greca, GT-77. Tutto attaccato, radio Delta Delta India Tango Yankee, spazio Golf Delta Latino 77 su Amazon. no, alla fine sono loro che pagano a te per comprarlo. Però va bene, hanno tolto anche quella scusa che molti avevano dicendo ma sono apparati costosi, così via, ecco. Ripeto, non c'è un tela, oramai non so se l'ho detto, ma il tela ha sparato la Motorola, perché si ha anche preso, non è bastato che ha comprato la Rodeswart, che era il sogno di ogni radioamatore, e non solo, ma si ha comprato anche la Secura, che è una grossa casa di comando inglese, con la sordita, quindi sta allargando a macchia d'olio tutta sul professionale, ha tolto fuori una radio che dà paura. La mia adesso è diventata la numero 2, quella che ho comprato io, e al numero 1, al primo posto, c'è una specie di portatile tablet, cioè immaginate un portatile con lo schermo grande, totale, tipo tablet, e fa tutto, c'è tutti i sistemi tetra, video a larga banda, e poi BMR eccetera, ma penso che costerà oltre 1.500-2.000 euro. Thank you. sentiamo un po' di cose. Allora domani, buona cena, sono San Verizio, fatti sentire, tanto qua più o meno ci siamo spesso, cosa strana, ma dai, come si dice, i vecchi amori tornano sempre a galla. Franco? Sì, avanti. C'è qualcuno che chiama? Avanti, buonasera.